Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:35 di questo lunedì 14 ottobre 2013. Buonasera da Agostino Spalore, eccezionalmente questa sera qui presente per accompagnare Maurizio Soprato Calzavara a condurre, insomma, questa trasmissione, questa intervista in diretta, in acustica, come sempre, il consueto appuntamento con i nostri omaggi dal vivo qui nei nostri studi. Questa sera con un gruppo si chiama Love Spoon, ritornano con un disco nuovissimo che ce lo faranno tra poco sentire, vero Maurizio? Certamente, ritornano con molto gradimento. Siamo molto, molto onorati di questo ritorno. Poi rivedere i vecchi amici fa sempre molto piacere. Fa sempre piacere. Poi loro vengono da Ravenna, hanno fatto un po' di strada, ma insomma. Li vedo pimpanti. E Joe è sempre di maniche corte. E Joe è sempre di maniche corte. Anche quando è sempre venuto con le maniche corte. Hai mai freddo, te? No, mai. Non mi fa piacere, Joe. Allora, prima di scoprire chi sono i Love Spoon, o meglio di riscoprire per chi ancora non li conoscesse, qui dai nostri studi, vi ricordo il nostro numero telefonico in studio, lo 049 875 6423, poi gli sms, il 346 2320 033, le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, e questa ovviamente è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, e cioè Blu Radio Veneto. Agostino Spalore, Maurizio Calzavare, Love Spoon, li potete sentire anche tramite streaming, e basta collegarsi nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì c'è scritto ascolta la radio, cliccando su, appunto, su questa frase, potete sentirci in streaming ovunque voi siate in tutto il mondo, quindi insomma vi aspettiamo numerosi come sempre. E adesso invece parliamo di questa band che ci presenta il loro ultimo lavoro, che si chiama Chaos Soul. Quanto anima c'è dentro, Joe, questo disco? Piena seppa d'anima. Benvenuti innanzitutto comunque Love Spoon. Grazie per l'ospitalità. Sì, quando è venuto la prima volta Joe era da solo, e adesso abbiamo allargato la band, è una cosa positiva. La band sono in quattro, abbiamo lasciato a casa Luca, lo salutiamo, il batterista. Alla prossima vi promettiamo esattamente la formazione totale. Esatto. Dunque, dopo un primo disco molto bello, siamo stati molto soddisfatti di averlo sentito e di averlo fatto sentire ai nostri ascoltatori per parecchio tempo, arriviamo al nuovo disco. C'è leggermente un cambiamento. Da Love Spoon, titolo omonimo, mi pare, c'è un cambiamento, un allargamento. Giustamente Joe, mentre si parlava a microfoni spenti, è proprio un album da band questo rispetto al precedente. C'è più coesione, più forza, più rock, è così, Joe? Sì, questo disco qua c'è proprio un maturato dentro, nel senso che il primo disco praticamente è stato il disco col quale noi musicisti ci siamo conosciuti, nel senso che ci conoscevamo già tutti da tantissimi anni come amici, prima come amici e poi come band. Frequentatori, esatto. Abbiamo fatto tutte le nostre esperienze parallele, a volte ci siamo incrociati musicalmente, ma poi è stato 4 anni fa che abbiamo deciso veramente di metter su. La cosa è iniziata perché io ho qualche pezzo da far sentire appunto dei miei amici, glieli ho fatti ascoltare e da lì è partito tutto. Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un disco, e invece in questo secondo disco, secondo me, è maturato, c'è un po' dentro tutto, c'è dentro un po' di esperienza live, c'è dentro il fatto che magari le prime volte parte dei componenti della band stavano più a cercare di seguire quello che voleva l'autore, diciamo, della canzone. E invece adesso abbiamo proprio rimesso mano a tutto quello che viene proposto, di conseguenza il prodotto che esce è proprio la canzone della band. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori: il disco è un bel muro di chitarre. Stasera abbiamo delle chitarre acustiche, però sempre chitarre sono. Sì, sono acustiche, però manca un ukulele. Manca un ukulele, esatto, c'è anche quello. Lo suoni te l'ukulele? No, non lo suoni te. No, io guardo gli altri. E tu guardi gli altri. Mi compiaccio di vederli suonare. Sì, perché stasera il basso non ce l'hai. No, ho lasciato a casa. Però comunque è la sezione ritmica della serata. Sì, hai un po' gli ovetti, qualcosina fai. Sì, eccoli qua. Eccoli. Sentiamo gli ovetti. Senti gli ovetti. In ogni caso, sì, questo nuovo disco è un disco di più atmosfera, nel senso rockettare, è un disco di rock, c'è poco da fare. E questo bel muro di chitarre, io l'ho sentito più di una volta sto disco. Il precedente ha avuto un sacco di recensioni positive, e siamo molto contenti. Anche questo è uscito ad aprile-maggio, quindi non tanto tempo fa. Anche questo ha smosso la critica, nel senso positivo. Se si smuove Giancarlo Susanna per voi, vuol dire che si smuove la critica, cari ascoltatori e cari ragazzi qui davanti. Quindi è un bel disco, un disco interessante, un disco rollingstoniano nel midollo in qualche momento. Io che sono rollingstoniano, anche beatlesiano, ma molto rollingstoniano in questi ultimi tempi, mi compiaccio molto di questo disco, di questo andare, di questa vostra cavalcata elettrica, perché praticamente una cavalcata elettrica, cosa dici Gio? Assolutamente, lo si vede anche da alcuni pezzi che ci sono in questo nuovo disco. Nel disco precedente non superavamo i 2 minuti e 43 minuti come canzone, qui ci siamo permessi di fare canzoni da 5 minuti, episodi. Canzoni da 5 minuti in cui non ci siamo minimamente fermati un attimo a pensare a facciamo 2 ritornelli, facciamo questo. No, ci abbiamo messo dentro anche, secondo me, un bel po' di psicadelia. Non che anche non un po' sentisse di acidità musicale, sì, molto acidi siete. Come diceva Joe, questo è un pezzo molto. È un album molto improvvisato. Ma è bello l'improvvisazione, è bella però. Perché è improvvisato, noi siamo gli autori, io e Joe, però diciamo che fondamentalissimi sono Nick e Luca. Perché l'arrangiamento. Sta parlando Mattia adesso. Matteo. Fondamentali sono Nick e Luca, che in pratica ci danno un po'. È la sezione ritmica. Sì, la sezione ritmica che ci dice un po' dove andare. Anche magari noi proponiamo un pezzo, lo pensiamo in un certo modo, loro invece ce lo stravolgono totalmente. E alla fine viene un risultato che è della band. Non sì, è quando Nick prima. Tira fuori il basso, incide con il basso, dà una certa linea, e Luca incide con la batteria, dà una linea. Una band col basso e la batteria, una band rock, assolutamente rock, il basso e la batteria sono tutto, proprio l'autostrada per portare avanti il discorso. A parte il basso e la batteria come linea, ma anche come struttura del pezzo, proprio come idea, come andamento. Sì. Fondamentalmente io e Matteo, quando proponiamo un pezzo, loro incominciano a grattarsi. Ma la barba, lui si gratta bene con la barba. E quindi poi si litiga. No, questo pezzo dovrebbe fare così, dovrebbe fare quella. Insomma, i pezzi vengono. Molti dei pezzi di questo disco sono stati veramente stravolti. Cambiati totalmente. Cambiati. Cosa dice Agostino? Sì. Apriamo la finestra. Te lo stavo per dire. Hanno scelto come prima traccia da far sentire una canzone dal disco, se non sbaglio. Sì. Esatto. O volete suonare dal vivo? No, dal disco. Allora, ci ascoltiamo questa traccia numero 2, Mary Comes, che ci dice qualcosa? Potrei dire una cosa, che abbiamo fatto da poco il video, l'abbiamo presentato in questi giorni, l'ha fatto un nostro amico, e abbiamo fatto questo video di Mary Comes, secondo noi molto carino, e ne è andato su Rock It. Quindi ha girato praticamente. Sì, speriamo giri bene. Un po' di più, però. Speriamo. Sembra che giri, però. Però questa è Mary Comes. Benissimo. I don't believe in it. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, allora 22.46, come dicevamo qualche minuto fa, abbiamo i Love Spoon. Questa è stata la prima canzone che abbiamo ascoltato questa sera. In realtà è la traccia numero 2, insomma, io pensavo che la metteste invece come traccia numero 1. No, 1.30 dura la traccia numero 1 circa. Questa è una trovata sempre di Nietzsche, sempre di Nietzsche. Spiegherà lui. Spieghiamo perché la traccia numero 1 dura 1 minuto e 30 sì. Circa. È un intro. Esatto, praticamente la traccia numero uno si chiama Pale Moon. Ed è una delle versioni del pezzo del Pale Moon, che è l'ultimo. Che poi è l'ultimo del pezzo. Esatto. Noi in questo modo abbiamo voluto fare in modo che il disco iniziasse e finisse in fade in e fade out, cioè in dissolvenza e dissolvenza all'incontrario, con lo stesso pezzo. Non lo so, a me questa cosa qui mi è venuta. Ti piaceva? Mi è piaciuta soprattutto pensando alla mia vecchia autoradio che aveva l'auto reverse, no? Ah, ho capito. Sì. Per cui uno, se si addormentava, andava sempre in avanti. Macchina, la cassetta andava all'infinito. Cioè, certo. La batteria si scaricava. Finché non si scaricava tutto quanto. E quindi abbiamo voluto un po' rendere una cosa circolare. Certo. Però tu non l'hai detto, non hai pensato, è la croce e delizia dei DJ questo pezzo, questo inizio. Una da 1:30 e una fine, cioè è la croce e delizia. Cioè, un DJ non sa che quel primo pezzo dura 1:30, 1:15. Ma è bello così, no? Dai un po' di suspense. Sì, è un effetto suspense, anche perché questo pezzo iniziale, più che avere un testo e una struttura propria, è un pezzo che vive soprattutto di atmosfere, nel senso di... più oniriche. Di rumori, sì, ecco. Sì. E quindi serve poi a dare in là tutto quanto. Esatto, cominciamo parlando di questo secondo pezzo, questo muro di chitarre e questo Hendrixiano convinto che sei te, Matteo, visto. Questo da solo l'hai fatto. Mettiti vicino al microfono. Sì, cavolo. Se sentiva che Hendrix lo ami, lo ami sì. Hendrix. No, sì, dai. Beh, insomma, ci provo. Ci provi. Cioè, questo andamento, questa idea dell'assolo, bello, esergico, acido, che sì, deve per me l'idea, spaccare. Soprattutto l'idea nel pezzo della chitarra è il delay. Esattamente. Per tutto il pezzo c'è questo delay molto accentuato, che con un accordo si ripete. Esattamente. Si ripete, e poi alla fine c'è questo wow che si sente molto presente. Chi dà un certo effetto, sì, e senso a chi ha una certa età come me, si ricorda certe cose molto interessanti, molto belle. Sì, hanno scritto i critici, è un ricordo, ma un ricordo, ricordare non è mica una brutta cosa. No, è una bella cosa. Basta non copiare. Voi non copiate assolutamente, quello è importante. Ci proviamo almeno. Assolutamente. Per non copiare, adesso iniziamo a suonare veramente, perché questa, cari ascoltatori, è una band live, assolutamente live. Stasera con le acustiche, con ma è sempre live. Sì. Adesso proporremo questo pezzo che si chiama Sleeping on a Bench, che nel disco sono due assoli che facciamo, uno io e uno Joe. Stavolta non ne facciamo neanche uno perché è possibile. Siamo in acustico, che dire di sto pezzo? Sto pezzo qui in pratica mi è venuto in mente dopo una serata un po' alcolica, mi sono ritrovato proprio a dormire in una panchina. Quindi... un momento di relax. Una cosa, sì, diciamo così, che non è molto bello risvegliarsi in una panchina. Però può capitare. Può capitare, però da una cosa brutta io ho fatto almeno una canzone che spero vi piaccia. Ok. To me, babe. anybody seems to be loved forevermore, but I don't know. Shut your sky, shut your soul. I'm not a dreamer anymore. What do I want far away from me? Nowhere to go. Please open up your soul, and I will find myself sleeping on the bench, into the skyline, into the moonlight, following people's mind. People on me ties, so walk away into the moonlight. Caro Agostino, posso dire, questo è un rallentamento, uno dei pochi pezzi nel disco in cui c'è una stasi. C'è una stasi, c'è una piccola stasi, vero Matteo? E c'è anche un coro di femmine, di donne. C'è un coro di donne, di ragazze. Ricordiamo come si chiamava, come si chiamava questa canzone, ricordiamola. Sleeping on a Bench. Come mai questo coro di ragazze, caro... sei Nick, dimmi. Allora... sinceramente questo non te lo so dire, perché la canzone è l'ha spiegato Matteo. No, però posso dirti che comunque ci siamo avvalsi appunto di queste tre nostre carissime amiche. Che salutiamo. Sono Raffa, Lale e Silvietta. Questo trio si chiama The Silviettas. Ah, perfetto. Nate per l'occasione. È nato anche il nome per l'occasione. Tutto qua. L'avete coniato proprio. Ora è nato il nome. Ah, perfetto, questo non lo sapevo. Benissimo, è in diretta. Abbiamo dato il nome in diretta. E ci è piaciuto coinvolgerle perché sono persone che in un modo o nell'altro, per amicizia, per qualcosa più che amicizia, ma anche per collaborazione che loro ci offrono per quanto riguarda ad esempio i testi o qualche arrangiamento. Insomma, ci abbiamo particolarmente tenuto ad averle presenti nel nostro disco, anche per quella che era, diciamo, l'avventura umana che ha portato noi a realizzarlo, no? Mm-hmm. Quindi diciamo mi ha dato una mano, esatto, un aiuto, esatto. Volevo dire sì, questo. Sì, sì, che poi io personalmente la ritengo il pezzo meglio riuscito, proprio perché siamo riusciti, come dire, a tenere il freno rispetto a quello che è il nostro poi lasciarci andare elettricamente, ad esempio dal vivo, o comunque quando si tratta di alzare il volume. In questo caso invece, proprio per il fatto di essere riusciti a trattenervi, ad avere un'atmosfera così intima, così intensa, ecco, me la fa preferire rispetto... Posso dire, se non sei d'accordo, Nick, se sei d'accordo, Matteo, vediamo se sei d'accordo anche Joe, è un country, sì, un country, sì, una ballata country, un po' malato, francamente, un po' alcolico, un po' woziano, un po' lato, un Waits, possiamo dire, tra virgolette. Ho pensato al coro di donne, esattamente, per alleggerire un po', perché sennò sarebbe un po' troppo pesante, perché se uno legge il testo, cosa dico? Però, in ogni caso... pezzo è molto bello, molto positivo, interessante. A proposito di pezzi positivi, salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ama particolarmente questo disco ed è molto soddisfatto che stasera siete venuti nuovamente a trovarci, e lo salutiamo caramente. Ciao Alberto. Ci sta ascoltando. Sicuramente. Quindi avete rallentato, vi siete fermati, avete fatto un piccolo stop. Giustamente Matteo diceva, e anche Nick, dal vivo c'è una stasi, perché il muro di chitarra è bello, è positivo, è fondamentalmente forte, però ci vuole un momento per pensare, di rilassarsi, di alleggerire. Stufi un po', esattamente, di alleggerire, anche se il disco, ripetiamo, è leggermente lontano dall'atmosfera del precedente. Questo forse ci assomiglia leggermente all'atmosfera del precedente. Cosa dici, Matteo? Ha un piccolo filone collegato, piccolo. Joe non è molto d'accordo, però lo dico lo stesso. No, no. È d'accordo? No, cioè. No, assolutamente. Dica cosa, sei d'accordo oppure no? No, non favelli. Beh, io ho già espresso... il tuo parere. No, sì, sono d'accordo. È stato Sì, ritorno alle origini non può essere la definizione giusta perché siamo... No, no, non è un ritorno, c'è un piccolo collegamento. Sì, un ritorno alle origini, no, perché siete andati avanti con questo disco nuovo. Comunque siamo noi che suoniamo, cioè che facciamo i pezzi, che li pensiamo, quindi qualcosa c'è sempre, c'è sempre. Anche dei vecchi brani che abbiamo fatto. E dal vivo questo lo fate così oppure leggermente lo graffiate meglio? Ma sinceramente da vivo abbiamo deciso praticamente di non farlo quasi più perché la parte delle donne abbiamo provato a farlo Joe Enigma, non è, che non è proprio la stessa cosa. Il maestro Matteo ci dà dei cighetti che... non è la stessa cosa, è quindi classico, lo lasciamo da disco, è il classico brano buono alla prima, ci è venuto bene in studio di registrazione e non si poteva sporcare poi con altre versioni. No, promettiamo però che insomma ci lavoreremo sopra, possiamo sempre invitare le ragazze dal vivo. Sì. No, è anche perché sono fatto. Veramente molto d'accordo con Nick però su quello che ha detto, proprio un momento in cui riusciamo a rallentare, ma rallentare bene. Bene, bene, cioè, non rallentare così al pezzo. Ed è una cosa che insomma a guardare dall'esterno dice cazzo, siete stati bravi. Ci piace assolutamente. Quanto ci avete messo a fare questo disco? A pensarlo o a tutto l'assieme? Beh, a pensarlo ci sono dei pezzi che già al primo album avevamo già fatto, come Marionette proponevamo già dal vivo, anche Cairo Soul, lo stesso Cairo Soul proponevamo già da un po'. Quindi le avevate già... Sì, ce le avevamo già pronte. Rodati live soprattutto. Rodati live. Andando al Paymoon e altri pezzi. Per registrarlo siamo stati... Un po' di tempo. No. No. A registrare no, è più... trovarci in sala prove dopo Nick e Luke si devono adeguare. Siete stati qui vicino a fare qualcosina dal punto di vista fonico a Montebelluno, l'avete fatto? Sì, diciamo che abbiamo deciso le registrazioni sono durate praticamente due fine settimana ed è stato nel periodo in cui venivano giù chili di neve. Perfetto. Poi invece il master e il mix e il master l'abbiamo fatto dai nostri amici qua a Montebelluna, cui avete fatto anche il primo disco, da cui abbiamo fatto sia registrato che più disco ufficiale. Voi avevate fatto un EP precedentemente. Esatto, sì, siamo molto in sintonia con il loro modo di intendere musica e soprattutto registrazione o quello che deve uscire dal disco. Di conseguenza ci siamo riaffidati a loro per come si chiama chiudere questo il studio? Prodotto. Lo studio è Outside Inside di Montebelluna. E, diciamo, l'ingegnere del suono è Matt Bordin dei Mojomatics, che sono venuti qua anni fa. Punta, sicuramente qua in Veneto, certo. Ma anche insomma hanno avuto modo di farsi strada anche all'estero. Adesso sinceramente non li seguo molto negli ultimi tempi, ma comunque proprio per il fatto di avere questa esperienza personale che si rifà al blues un po' a vedere la musica anche acido, leggermente acido. Esatto, noi ci siamo trovati insomma, come dire, la mano dentro il guante, insomma, certo. Quindi completamente a nostro agio sia per il modo di lavorare che poi per il risultato, anche perché questo disco è uscito anche in LP. Finalmente bello. Siamo riusciti a fare il 33 giri come e sinceramente suona meglio il 33 del come sempre. Così per curiosità, quante copie ne avete stampate in 33 giri? 200 300. No, 300. Per fortuna che non ci ha chiesto quante ne abbiamo vendute. Questo non lo chiedo. Però è bello anche fisicamente a vedere, proprio a toccare. Vinile giallo, bellissimo. Vinile giallo, meraviglioso. Ma il suono diventerà da collezione, caro Nick. Cosa dici? Sì, speriamo. No, il suono è bollente. È tutta un'altra cosa. Il suono è bollente. Giustamente Agostino diceva tutta un'altra cosa. È sempre stato così, il CD è molto freddo. Esattamente, c'è un esempio famoso che spesso le riviste come Suono, che abbiamo citato Giancarlo Susanna, che ha fatto una recensione meravigliosa sul Suono, a parte vostra, facevano la prova, The Wall dei Pink Floyd da CD e The Wall dei Pink Floyd da disco. C'era un abisso. E così c'è poco da fare. Eppure The Wall dei vinile è stato fatto decisamente prima. Certo. Però c'è un abisso ancora. La stessa cosa tu dicevi, Nick, giustamente si diceva, c'è anima nel disco, c'è qualcosa in più. E giustamente, Agostino, il disco è freddo, CD non ha anima, anche se è un bel prodotto, però purtroppo è così. Sì, no, per quanto tecnologicamente sia all'avanguardia, sia il miglior prodotto che possa esistere secondo il mio modesto punto di vista, ovviamente, però insomma il suono che dal 33 giri è tutta un'altra cosa. Noi che abbiamo vissuto gli anni nel 33 giri, questo te li ricordi? Certamente, qui se facciamo 50 metri nell'altra stanza ne abbiamo un sacco di 33 giri, però è bello, si respira un'aria, un'aria non vecchia, però una bella aria. Secondo me è molto più bella anche come oggetto, proprio come oggetto, come copertina. Ma sì, noi l'abbiamo detto spesso e volentieri in questa trasmissione quando si parlava di 33 giri, che spesso quando in quei tempi ovviamente andavi a comprare la il disco perché c'era la copertina che ti ispirava. Come sempre lo ripetiamo, ancora. Ci ricordiamo quella dei King Crimson, che era quella con il disegno, quella, esatto, quindi quella facciona così, e ti piaceva, hai ripreso e acquistavi, anche se magari poi non sapevi il prodotto quale fosse. Uno scrittore di pezzi giovanili aveva detto che quando si avvicinava a un disco c'era il modo, la maniera, la dose di leggermente toccarlo e leggermente aprirlo con una certa gradualità, perché c'era anche quello, era un rito aprire un CD, un 33 giri, e un'altra, aprire un CD si fa presto, in Veneto si fa presto, ecco, si fa presto. Aprire il CD è come aprire un vino chiaro. Esattamente, però aprire cioè tagliare la carta dell'LP senza rovinare è una cosa meravigliosa. Caro Nick, io ho una certa età, ma tu sei d'accordo con me nonostante tutto? Sì, beh, io a casa mia ho ancora i 45 di mio padre e mi piace tuttora sfogliarmeli, anche se sono cose magari che vanno al di fuori del tuo dei nostri gusti, certo. Anche se è un CD, che ne so, di Albano, non di Gigi D'Alessio, no, quello no, assolutamente. Vabbè, stavo per dire Albano. Il Sole di Albano. Del Sole, bellissimo pezzo, bellissimo all'epoca. Stiamo scherzando, ma mica tanto, dipende. Adesso non scherziamo più proprio nel vero senso della parola, perché ci ascoltiamo qualcosa. Torniamo al disco o volete fare qualcosa dal vivo? Torniamo al disco. Torniamo al disco. Però Joe. Joe, che pezzo avete scelto? Anyway. Bellissima Anyway. Anyway, anche da questo è stato praticamente il primo singolo estratto e anche da questo abbiamo fatto un video. Abbiamo collaborato con un artista e abbiamo fatto un video che si può vedere tranquillamente. Se andate nel nostro sito internet, www.lospoonband.com, oppure Facebook o qualsiasi cosa su internet, trovate benissimo la nostra musica e i nostri video. Anyway, pezzo coloratissimo e bellissimo, adesso lo sentiamo. Ok. Lost. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Caro Agostino, quanto bello era questo pezzo, proprio insomma, colorato, dà proprio la sensazione di gioia, di allegria, fatto in studio, vero Dicca? Inventato proprio in quel momento? Praticamente sì, definito nelle parti, nei dettagli, in studio, a differenza dell'80% del disco che è stato rodato, ecco, fuori, dal vivo, prima di essere registrato, questo ha avuto una partitura là, il contrario come esperienza, ecco, nato... diciamo nelle parti fondamentali, ma poi definito proprio in sala d'incisione. Io ed Alberto eravamo non sapevamo cosa scegliere tra Anyway e Bianca. Abbiamo scelto Bianca come pezzo da far sentire, però anche questo qua ci aveva fermato perché colora di California. Secondo me colore di California, tanti bei colori e tanti bei coinvolgimenti musicali, sonori. Qua vi siete fermati un'altra volta, non avete tirato fuori gli artigli elettrici, avete tirato fuori gli artigli acustici, è una cosa positiva, secondo Assolutamente me. Assolutamente sì, infatti sono appunto i due episodi in cui effettivamente tiriamo fuori un altro tipo di sound. Esattamente. E anche noi ci rendiamo coscienti di essere capaci di fare queste cose. Anche per noi è un imparare nel fare i nostri. Perché fare l'acusticità, cari ascoltatori, non è semplice, è un po' complicato. Cosa dici, Matteo? O no? Sì, per me. Alza pure il microfono. Per me. Tu che sei un rocchettaro convinto. Insomma, per me ogni volta un pedale è un mistero. Per me non capisco mai come che gira. Ogni tanto è acceso il pedale, pure scompare il suono. Suono da tanto, ma i pedali sono un po' contro di me. Anzi, io sarei per i pedali, ma solo loro che sono. Addirittura ancora... il ragazzo adesso si è comprato anche la pedaliera. Ah, perfetto, ancora si sta ancora meglio. Allora. Ma. Pedaliera con i pedali dentro, non è, perché è più comodo, perché sennò rovino sempre i jack. Ho capito. Sì. La roba non è che la tengo benissimo. Dopo mi arriva un po' così, almeno lì c'è la valigetta. E quindi sei a posto. Pronto, sì. Esattamente. È una bella utilità, bella comodità. Dopo, più che però utilità. Mi scompaiono i suoni, non so. Parlavamo di fare una telefonica col nostro batterista, che poi non facciamo, ma... Vorrei proprio sapere cosa pensa della pedaliera del nostro chitarrista. L'ultima prova mi ha detto che è brutta. Ma è brutta. Facciamo un invito se ci sta ascoltando. Io ricordo il numero telefonico. Allora, 049-875-6423. Se sei in ascolto, si chiama... Luca, se sei in ascolto, Luca, ti invitiamo a telefonare. Ti facciamo sentire anche in diretta. Insomma. E commentare la pedaliera di Luca. Commentare la pedaliera. Voi avete detto prima che Sleeping non lo fate sentire, perché è un po' difficile farlo sentire dal vivo, non ci sono le tre ragazze, il coro femminile, e questo dal vivo lo fate sentire questo pezzo? Sì, questo sì. Assolutamente sì. Lo fate proprio in questa maniera? Oppure date un po' fuoco alle polveri? Beh, diciamo che forse live tendiamo un po' più a renderlo come siamo noi, e quindi è un po' meno da studio. La seconda parte sì. C'è un flanger nel disco, c'è anche una tastiera sotto che suono, però chiaramente se suono la chitarra non suono chiaramente sì. Però viene comunque molto bene. Il pezzo era molto bello, è proprio, non so a che traccia sia il pezzo. Quarto, è quasi la metà praticamente. Non è mica l'idea delle tracce predisporre i numeri, non è una cosa fatta a caso, è una cosa fatta in una certa maniera, non è così? Sì, poi questa volta in particolare che abbiamo deciso proprio il 33 giri, a maggior ragione. Facciata A e facciata B. Esatto. E facciata A c'erano i primi tre pezzi o i primi quattro pezzi? 6 e 6? Sì, o 5 e 6 o 5, 6 e 5, insomma. Sì, adesso non mi ricordo perché. Dimmi. Sono 12 le tracce. C'erano i due pezzi, Carrio Sole e Marionette, che sono due pezzi abbastanza lunghi. Adesso non mi ricordo come fosse la scaletta. Forse uno finisce. Marionette finisce il lato A e poi si riprende col lato B. Esatto. Perfetto. È una bella cosa. I vinili sono sempre una bella cosa. Poi tu hai detto, Nick, che ha un vinile giallo praticamente. Esatto. Sì, è incredibile perché è giallo. Adesso perché è giallo. Perché è incredibile. Avendo potuto scegliere, diciamo, tra una rosa di di colori, colori avete scelto il giallo, il giallo Mellow Yellow, il famoso, esatto, pezzo di Donovan, chiaramente grande Donovan. Dobbiamo citare un nominativo, ti sei dimenticato, vero, sì, Matteo? Sì, prima mi ero dimenticato di nominare Filippo Giunti, che è il regista che ha fatto il video di Mary Kay, e invece di Anyway, sì. Anyway invece Massimo Ottoni. Benissimo. E ricordiamo anche l'etichetta, anche loro praticamente. Noi, insomma, noi non è... e la Amen Records. Esatto. Esattamente. Faremo un sacco di bei dischi. Sì. Siamo partiti bene, dai. Siete partiti benissimo, poco da fare con le vostre sostanze, ma avete gestito bene. E la Silvia Mazzavillani e Tabita Frulli. Sì, Tabita Frulli è quella che ha fatto la copertina. Ha fatto la copertina, in pratica adesso diventa un attimo serio. Certo. L'anno scorso è venuta a mancare la mia ragazza in un incidente stradale. No, non so. E questa nostra amica ha fatto una mostra di quadri per lei. Io ho comprato quel quadro lì, mi piaceva molto. E da quel quadro lì, infatti, l'album è dedicato a Lilla. Sì. E abbiamo fatto la copertina con quel. Col suo quadro, con un particolare del quadro. Certo, hai visto? Non sì, visto. È molto bello, sì, visto? Decisamente. Non possiamo farlo vedere perché non abbiamo le telecamere, però insomma c'è una, raffigurata una ragazza con i capelli rossi. Sì, il titolo del quadro è She Wolf. Mm-hmm. Quindi un'occasione giusta per comprarlo il disco, assolutamente. Sì, almeno per noi, per farlo. Esattamente. Cioè, almeno io in tante diverse canzoni, infatti, sono dedicate anche, certo, a lei, chiaramente. La Tabita è un'artista tutto tondo, bravissima, la nostra amica, anzitutto è la nostra amica, fa dei lavori bellissimi e noi siamo, lei è strafelice di aver messo una sua opera sul nostro disco, e noi siamo felicissimi di aver potuto mettere una sua opera sul nostro, certo, disco. Quindi... Invece Silvia Mazzavillani... nelle Silviette, che ha fatto il coro di Sleeping on a Bench, e in pratica mi aiuta a scrivere in inglese, in pratica io scrivo in inglese, poi lei mi ricorregge, mi mette un po' a posto perché ha vissuto per tanto tempo in Australia, quindi... Abbiamo avuto la settimana scorsa un'australiana qui, eh? Sì. Poi c'è un ragazzo che faceva la traduzione, che anche lui è stato per molto tempo in Australia. 15 anni. Quindi, benissimo, 23:13, cosa facciamo? Suoniamo adesso? Sì, sì, sì. Cosa ci fate sentire? Another Pay Moon. Ah, quella è l'ultima traccia del disco, stasera non è l'ultima traccia, perché sono le 23:13, abbiamo ancora tempo. Ok. pezzo molto bello anche questo, questo riferimento, questo omaggio ai quattro baronetti, Love Me Do, è solo un omaggio, però è un omaggio sentito, dolce, delicato, pezzo molto bello, che termina, come giustamente ha detto Nick, e praticamente con il percorso dal prima traccia all'ultima, all'undicesima traccia, che dà proprio il titolo, Another, esattamente, sì. C'è un Another prima. Sì, e infatti proprio per anche dal vivo, come lo fai, per rispecchiare questa circolarità, è il pezzo che diciamo è più aperto alle soluzioni che ci vengono suggerite da, che ne so, dalla gente, sì. Dal coinvolgimento o non coinvolgimento, certo, ecco, quindi certo. Questo pezzo può andare dai 3 ai 7 minuti, insomma, quindi è un mantra potremmo, esatto, dire, sì. Così in questo caso proprio sì, perché proprio vive delle, come dire, delle sensazioni che ci arrivano a noi, ecco, e se poi noi le recepiamo bene, questo pezzo insomma si espande, sì, si può espandere quando finché avete detto basta, praticamente. Sì, sì, anche perché dal vivo vive di volumi parecchio alti, ecco. Stasera questo volume non c'era. No. Questa sera era molto intimo questo pezzo, decisamente. Più che un pezzo rock, era una ballata, decisamente, sì. Una ballata. Però la versione live è un'altra cosa. È più potente perché doveva terminare un percorso di 11 tracce. Volevamo dire anche un'altra cosa. Dimmi. Noi questo album qui l'abbiamo registrato completamente dal vivo. Questa è una cosa molto positiva. Anche tutti gli assoli, tutte le cose che ci sono, a parte due tastiere dopo e le voci. E le voci, registrato tutto dal vivo, tutti insieme. Quindi ci guardavamo proprio in sala di registrazione, ci guardavamo tutti e quattro insieme e suonavamo, andavamo avanti. Anche in questa qui, in Another Pale Moon, è tutta dal vivo, cioè sì, è nato proprio, cioè, sì. Una cosa che un critico ha scritto, e io posso essere assolutamente d'accordo, io non sono un critico, però ho spulciato le critiche belle e positive di questo nuovo disco, un assieme, un crocevia tra i Counting Crow e i Pearl Jam, è una bella cosa, i Counting Crow è un gruppo straordinario, Pearl Jam ancora di più, una bella cosa, un crocevia, un insieme. Chiaramente riveduti e corretti dagli Love Spoon, è un altro momento. È un altro mondo. È un altro modo, chiaramente. Però questi collegamenti, seppur ideali, sono positivi, non sono negativi. Thank you. Sì, sinceramente mi era sfuggito questi collegamenti in particolare che ci vengono. Dopo bisogna vedere se siete d'accordo a collegare ai Counting Crow, ai Pearl Jam. E l'insieme della musica, sì. Possiamo dire questo. Beh, al di là delle colorazioni, i Pearl Jam ci può stare, ci può perché stare, comunque sì. A loro volta i Pearl Jam sono un gruppo che si rifà ad esempio a Neil Young and the Crazy Horse, che sono d'accordo. Una delle due o tre punti fermi maggiori nel nostro sound, certo. E anche nel modo, ma non sempre detto, i Pearl Jam si rifanno a Neil, sì, Young, sì, e sì. Crazy Horse, chiaramente, sì. Hanno anche fatto delle cose insieme, Ecco, lui ha preso un pezzo acustico di Pearl e ha fatto bene, Agostino. Benissimo. E doveva essere uscito. Sì, oggi, fra qualche giorno, il nuovo disco di Pearl Jam. Pearl Jam hanno una caratteristica, a proposito dello strumento che abbiamo qua davanti, tra parentesi, ha la caratteristica di creare determinate ballad acustiche molto interessanti, molto belle, molto. Sì, secondo me c'è una voce lui che meravigliosa, può fare qualsiasi cosa. Anche leggere l'elenco del telefono, sì. Può fare qualsiasi cosa. Ma al di là di questo, cari ascoltatori, i Love Spoon si stanno comportando bene. Anche questo pezzo che abbiamo sentito in versione live era un bel pezzo, decisamente. Ripeto, questa è la versione acustica, quindi chiaramente volutamente lenta. Però c'è la versione elettrica, quella forte, quella potente. E come si fa a vedere una versione potente e forte? Basta vedere i concerti per andare a assistere ai concerti dei Love. A proposito, prossimi concerti? Domenica. Ah, domenica, quindi fra poco. Domenica fra poco. A Ferrara, allo Zuni. Sì. Quindi ore 21. Oh, no, ore 20. Ore 20. Aperitivo. E via, si va avanti. Sì. Fino a quando si vuole. No, sì, insomma. Quella è una bella data. Dopo lavorare, cioè. Una bella data, dimmi Gio. È una bella data perché è un bel locale, è un locale che negli anni si è fatto conoscere, anche quest'anno sta facendo una buonissima programmazione e noi siamo contenti di far parte di questa programmazione. È una cosa che tu hai sottolineato, un locale che fa una bella programmazione. Grande onore a questo locale fare una bella programmazione, perché con i tempi che corrono, giustamente si diceva, Agostino, beh, tu lo sai meglio di me, i locali o i posti in cui si suona musica inedita sono pochi, sono molto pochi. Molto pochi. Invece sono tanti posti in cui si suona musica edita ed è sempre le stesse cose. Sì. è una cosa che in Italia continua e continuerà sempre, purtroppo. Non c'è verso di secondo cambiare. Secondo me la gente, la maggioranza della gente, adesso non voglio dire una cosa, però non ha voglia di scoprire cose nuove. Non voglia di pensare. Di pensare, è più facile per loro ascoltare le cose già sentite. Mangiando un panino, bevendo una Coca-Cola, sì, cose che conoscono da 15 anni, però preferiscono fare ascoltare quelle. Cioè, non è che ne ascoltano, ce l'hanno lì in fondo mentre stanno parlando per le loro cose, insomma. Una brutta cosa, purtroppo, per le band che invece si danno da fare, che sudano per fare un disco e sudano tanto, purtroppo non c'è niente. E poi, la colpa è anche delle radio, comunque, che fanno non la nostra. Ne parlavamo qualche minuto fa con Matteo, diciamo appunto che anche le radio, specialmente quelle commerciali, non ce l'ho con loro, ci mancherebbe altro, perché sono liberi di fare quello che vogliono, fanno ascoltare sempre le solite canzoni. Sì. Tu giri il canale, tu senti, non so, 10 volte le stesse canzoni. E invece bisognerebbe dare più spazio, perché gente che fa musica di qualità ce n'è tantissima. E bravi, esattamente. Quindi, e belli. E belli, vecchio. Quello... Tanto che passando i complimenti, facciamoli fatti te. Belli, direi di più, assolutamente. Se fossi una bella ragazza, Matteo, magari potrai anche dirlo. Lì che non dice niente. Lì che no. Per radio siamo tutti meravigliosi. Esattamente. Se voi veniste qua... Soprattutto le ragazze, meglio. Chiaro. Assolutamente. Musica e ancora musica adesso. Cosa ci fate? Dal vivo o dal disco? Scegliete voi, come sempre. Abbiamo circa mezz'oretta abbondante di tempo. Io avrei pronto quella che dà il nome all'album. Allora andiamo con quella lì. Però se volete fare qualcosa dal vivo, con quella cosa cariata. La title track, mettiamo la title track. Ci sta, sì. Beh, ci sta. Ok, una sigaretta, mi sa. Cosa? Niente, no, dico, ci sta anche una sigaretta mentre... Quella fa male, in ogni caso. Stai di seduto. Carry Soul, Love Spoon. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questo è proprio la fotografia di un pezzo live al 100%. Ed è registrato anche live, registrato anche il finale, live. Tutto... tutto proprio convulso, ma volutamente, piacevolmente convulso, acido, sì, psichedelico. Possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Duro, un bel muro di chitarre tiratissime, e poi alla fine no, lento, placido, che finisce proprio in un onirico, una specie di mantra, di jam session totale, che non finisce più. Grazie. Io l'ho sentito. Cosa dire, grazie. E proprio dal vivo è una cosa meravigliosa. Una volta i Grateful Dead facevano 15, 16, 17 minuti e si può continuare all'infinito, continuare a tirare fuori assoli e qualche altra cosa. Chiaramente voi dovete limitarvi nel minutaggio, però non è detto. Jerry Garcia. D'accordo, però l'idea di allungare considerevolmente il pezzo, di allargarlo, di fare un sacco di effetti, e gli effetti chi li ha fatti? Vi ha dato una mano chi? Gli effetti? Ci ha dato una mano Claudio Lupi, che abbiamo registrato da lui questo disco, perché io proponevo magari in questo pezzo qua certi, ma anche Joe, un po' tutti, un po' Nick, un po' Luca. Proponevamo dei suoni e lui ci dava una mano per realizzarli. Ma li ha allargati a dismisura, secondo me. Sì, sì, sì, anche perché lui con i pedali, contrariamente a me, gioca bene. Sì, ci sa giocare. No, ma bellissimo pezzo. È la title track, volutamente la title track, probabilmente per dare un seguito, per dare un'immagine musicale al disco. O non è così, Matteo? Sì. O Nick o Joe? A me piace anche l'idea proprio come titolo, come un disco anima cariata. Sì, esattamente. Cariata nel senso di... come possiamo definirla? Non proprio cariata anima, cioè... dimmi Nick, mi avevi detto all'inizio di trasmissione, sì, a microfono spento. Che carious, come cariato, è un termine proprio clinico. Clinico, insomma, esattamente. Credo in odontoiatria, esatto, sì, in inglese. E a noi ci è piaciuto... foneticamente la parola carious, perché richiama anche curious, cioè curiosità, e quindi in un certo senso anche, diciamo, contaminazione, esplorazione di sonorità, non di vari generi, diciamo, però comunque di ricerca, possiamo ricerca, dire ricerca più che altro, sì, delle atmosfere. Esattamente, questo pezzo, cioè, ha tante atmosfere, molto semplicemente è pieno di atmosfere, sì, perché ci siamo potuti permettere di fare un pezzo in un unico accordo. Indubbiamente, se uno, sì, vuol farsi il karaoke in re, per la precisione, quindi... ma comunque, per dire, muovendoci all'interno di un'unica tonalità, ci prendiamo la briga di poter fare quasi quello che ci pare. Infatti questo pezzo è quello che chiude i nostri live, e quindi giustamente chiude i vostri live. Esatto, sì, perché a quel punto lì noi alziamo il volume al massimo e arriviamo a un punto per cui, insomma, che amplificatori avete, finita, alti di un certo tipo oppure no? Una volta tempo fa, no, non siamo, qualcuno è venuto con un amplificatore analogico, era altissimo, e quando io ero al centro proprio il centro di tutto praticamente qua, e quando lui ha alzato l'amplificatore, per una settimana anch'io avevo le orecchie che non resistevano più. C'è poco da fare, dalla potenza che aveva l'amplificatore, la presenza del suono. No, gli anni 60 e 70 si usava così. Io parlo della fossa di leoni, quel termine non mi veniva. La fossa di leoni, quando uno è al centro della fossa di leoni, cioè al centro della band che suona, suona anche lui praticamente, secondo me. Cosa dice Agostino? Sì. Lui conferma. Lui non suona mai perché è il di là del vento. No, ma infatti. No, è il discorso dell'amplificatore, cioè non avete amplificatori potenti, o sì? Non particolarmente. No. Noi più che affidarci sulla potenza, sui watt, ecco, cerchiamo più di trovare il calore, diciamo, quello che è l'espressività del suono. Quindi a noi non interessa alzare, suonare a dismisura finché non sanguinano le orecchie. A noi interessa che certe tonalità, anche la versatilità di quello che è il nostro modo di suonare salti fuori dal vivo. Quindi all'interno di tre quarti d'ora, un'ora di concerto, ci teniamo ad avere un range, diciamo, più possibile di sonorità, e quindi per questo a noi non serve un equipaggiamento particolarmente potente. Costoso, insomma, noi ci affidiamo soprattutto, diciamo, all'effettistica, ecco, questo sì, le pedaliere, appunto, di cui si diceva prima, che Matteo finalmente ha comprato. Esatto, siamo giunti ad una svolta finalmente. No, comunque, per dire che comunque è più l'espressività, ecco, rispetto alla potenza. Abbiamo ampli che suonano bene. Ecco, quello è importante. Finché vanno, poi. Finché vanno. Anche loro hanno la loro età. Una certa autonomia. Mi ho avuto in mente che devo portare a farle vedere. Ecco, vedi. Sì, sono anche cose degli anni 70, ecco, quindi necessitano un po' di manutenzione. E tu hai citato prima il Pearl Jam come punto di riferimento, Neil Young, eccetera, i Crazy Horse. Pearl Jam usano spesso e volentieri strumentazioni in modo vintage, cioè di un certo tipo. Sì, è vero. E hanno proprio quella, giustamente, volontà di continuare questo discorso. È vero, anche gli Hammond. Esattamente. Esattamente. Dimmi, Agostino. Beh, le solite curiosità, insomma, chiediamo il nome, Love Spoon. Da dove avete preso spunto? Te l'avevo già chiesto forse l'altra volta, Joe, probabilmente. Ma se lo vuoi ricordare, da dove nasce? Allora, innanzitutto, vabbè, è stato beccato da me mentre cercavo di imparare un pochino meglio l'inglese, visto che alla fine mi toccava fare cantante e quindi non essendo troppo attrezzato nell'inglese, ai tempi, adesso invece vado con un filo di gas, leggevo nelle mie letture, trovai questa parola. Non composta, ma unita proprio, l'ospun. E niente, quindi lessi di questa parola, perché poi sotto c'era scritto un sacco di roba inerente a questa parola, e lessi appunto di questa tradizione gallese in cui il ragazzo regalava per poter corteggiare la propria amata, la propria ragazza, un cucchiaio di legno totalmente intagliato da lui. E mi piacque molto l'idea, ma mi piacque soprattutto a livello figurativo, perché vedevo anche noi nelle nostre sala prove essere degli intagliatori, nel senso che comunque i Lost Spoon hanno un forte animo romantico. In questo disco qua, Carry Your Soul, abbiamo parlato molto di acidità, ma sono a volte ballate acide, cioè la roba che c'è dentro deriva comunque da una ballata, perché quella probabilmente è l'ossatura che viene fuori meglio dal nostro quartetto, o comunque è nel nostro DNA. Poi è ovvio che abbiamo voglia di sperimentare, andare oltre, a volte mascherare, a volte trasformare queste canzoni. E quindi niente, ci piaceva questa cosa. Poi vabbè, come tutte le band, insomma, abbiamo avuto i nostri 2 mesi in cui non sapevamo proprio che nome dare alla band. Poi avete e trovato. Alla fine, così, spudoratamente, se è saltata fuori la parola Lospoon, ok, fatta. Ok. Vabbè, un'altra curiosità mia questa volta. Voi avete dichiarato in una intervista melodie killer. Cosa intendete per melodie killer? Sì, abbiamo dichiarato. Sono le vostre parole. Voi dite canzoni pulite, sobri nelle loro forbite tessiture, chitarristiche e anche un tantino visionarie, stop and go trascinanti, melodie killer. Probabilmente killer deriva, secondo me, ecco, mi sto facendo un'idea al momento, da quello che sono le nostre influenze, diciamo, come ascoltatori. Perché visto che siamo quello che mangiamo, no? Nel nostro caso i nostri ascolti vanno da cose sicuramente retro, anni 60 e 70, quindi Beatles, Stones, ma Neil Young, Kinks, non so, adesso questi sono Rodriguez, sì, anche i Byrds, insomma, Gram Parsons, e uniti a cose più contemporanee, quindi ad esempio, non saprei, Belen Sebastian, White Stripes, cose grunge anche, oppure i Primal Scream, anche gruppi britannici. Questi gruppi contemporanei che cosa hanno in comune con quelli più retro? Probabilmente la melodia killer, ecco, in questo senso, quindi per cui nell'ambito di sonorità diversissime, quindi chi è completamente elettrico, chi è completamente acustico, ha comunque questa particolarità di colpire chi lo ascolta appunto tramite la melodia. Che poi è quello che la è la canzone in sé, che rimane in mente, sì. Esatto, sì, tutto qua, ecco. Adesso che melodia ci fate dal vivo? Ora faremo un pezzo che si chiama Bianca, che abbiamo io ed Alberto abbiamo deciso di mandare in onda per un mese a questa parte come immagine sonora del disco. pezzo molto bello. Prima dicevo a Matteo e anche a Joe e anche a Nick, dal disco, adesso chiaramente adesso lo fanno dal vivo, ma nel disco Bianca il riff, il giro mi ricordava molto Genesis degli Ochuna, Norma Cocone e Jack Cassidy, un capolavoro assoluto della discografia di quegli anni. Quindi si parla del 1970, si parla da West Coast, e i Jefferson Airplane erano i Jefferson Airplane e sono i Jefferson Airplane. Quel pezzo là, Genesis, è una melodia meravigliosa, e questo giro, Matteo, te l'ho detto, te lo ripeto, mi ricordava questo, e io sono molto contento di ricordare attraverso i Lost questo pezzo meraviglioso. E Bianca è un grande pezzo, cari ascoltatori, dovete sentirlo assolutamente. Grazie. E allora Love Spoon, Bianca dal vivo su Radio Veneto. Che l'ovetto di Nick ci voleva assolutamente. Ho già detto prima tutto di questo pezzo, non ripeto perché è un pezzo bellissimo, dovete ascoltarlo con attenzione anche nella versione live, che è leggermente cambiato, vale la pena di sentire sia nella versione live sia nella versione chiaramente da disco. Il disco merita assolutamente merita. Cosa dice Agostino? Facciamo velocissimamente il giochetto. Sì, facciamo il giochetto. Joe all'epoca c'era, voi no, e c'è un piccolo giochetto. Di solito lo facciamo alla 23, ma stasera non avete mica fatto il giochetto a me. Non abbiamo fatto a te il giochetto. Adesso facciamo il giochetto, lo abbiamo fatto a te, visto che abbiamo poco tempo e siete in tre. Facciamo solo due dischi a testa. Da portare su un'isola deserta, cara Nick. Tu ne hai citati molti, però dobbiamo arrivare a due. Visto che hai cominciato te a rompere il ghiaccio, continui te. Due dischi da portare su un'isola deserta. A tuo piacimento, l'unica cosa, regola ferrea del programma, non si può copiare. Tutto là. Ok. Allora, uno italiano. Italiano. È una raccolta che regalai io a mio padre anni fa, di Lucio Dalla degli anni 70. Bene. io sono sempre stato un grande fan di Lucio. Fan di Lucio, ben prima della sua scomparsa. Certamente. Che creasse poi quello, sì, che è il solito, quello che ha creato, purtroppo. E una raccolta degli anni 70, quindi i dischi che fece con Roversi. I tre famosi dischi con Roversi. Esatto, quindi prima degli Stadio, quindi Automobili. Anadride Solforosa. Anadride Solforosa, e l'altro era Il Gatto. Il Giorno aveva cinque teste. Esatto, sì. Esatto. Fantastico. E poi un disco in lingua inglese. L'album bianco dei Beatles. Ecco. Abbiamo perché è lungo, è grosso ed è tutto, c'è tutto, tutto, c'è tutto, assolutamente. Ecco. Quello è un album che è gettonatissimo. Sì, è molto gettonato. O questo o Sgt. Pepper, però qualcuno dice Sgt. Pepper è la Bibbia del rock, però l'album bianco c'è un po' di tutto, c'è anche Sgt. Pepper dentro. Perché c'è più George, più Ringo. Più George, finalmente, beh, Ringo pochettino, ma George sì, gli hanno dato un po' spazio, giustamente. Era ora. Era ora. Caro Matteo, tocca a te. Allora, adesso ti avvicini al microfono. Allora, io rimango sempre nei Beatles perché io sono proprio un Beatlesiano convinto. Sì. Però nei Beatles direi Revolver. Perché per me Revolver è perfetto. Ha cominciato il mito. È perfetto. Sì, perfetto, perfetto, assolutamente perfetto. C'è il primo sitar di George Harrison, c'è la ballata di Paul, c'è la chitarra all'incontrario, c'è il pezzo da bambini per che canta Ringo, che ha fatto Paul. Esattamente. C'è She Said, c'è... C'è tanta roba. Taxman, cioè, un grande album. Cioè, i violini di Eleanor Rigby, anche come testo Eleanor Rigby è perfetto, è stupendo. E poi ultimamente sto ascoltando molto, adesso mi viene in mente Forever Changes. A dei Love. Sì. Devo alzarmi in piedi adesso. Sì. Devo alzarmi in piedi perché è un pezzo. Dunque, posso dirti che l'abbiamo programmato fino a qualche giorno fa nei miei programmi di notte, non solo acustico, c'era Forever Change, perché è bello. Arthur Lee era un grande, quello è un disco meraviglioso. Non stanca mai, è stato ristampato, si trova in edizione economica, andate a comprarlo, non è che faccia pubblicità, andate a comprarlo perché poter capire che qual era la musica di quel tempo, fatta da un gruppo straordinario come i Love, e Arthur Lee era uno straordinario tessitore di suoni. Sì, sì. Melodia, una chitarra che per me è stupenda, un modo di suonare che ha stile, ha gusto, sì, ha classe. È una meraviglia, è assolutamente una meraviglia. Senza voler strafare, però un suono, un gusto soprattutto. Ascoltate bene i Love, è un consiglio da Rockwave. E i Love Spoon, chiaramente. Vedi, Love Spoon ha un collegamento. Love Spoon ha un collegamento, secondo me. Anche Love in Spoonful, allora. Anche Love in Spoonful, hai ragione. Tocca a te, Joe, adesso. Io, ex il Main Street degli Stones. Ah, i Stones, quelli proprio francesi, quelli incisi in Francia, il disco proprio del blues. Amo il disco, amo le foto che ci sono, che sono state fatte. Senti, Love, eccoli qua i Love. E questo, sì, esattamente, la scelta da non solo acustico, chiaramente, i Love sono quelli bellissimi. Quindi, Exile on Main Street degli Stones, c'è un Rolling Stone, nella tua mente c'è un Rolling Stone sicuramente. E poi After the Gold Rush di Neil Young, un altro classico, sì. Inghiano. Tu sei sono dischi che non riesco a non ascoltare, e quindi... non stancano mai. Di certo, insomma, se dovessi farmi un focarello nell'isola deserta non userei quella roba, userei tutto ma non quello. Bene. Facciamo ascoltare qualcosa cosa mi guardi male? No, ho visto Nick che mi ha scannato gli occhi. No, adesso abbiamo circa un pochino, in onore tuo, Matteo. Anzi, Joe. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. Sempre meraviglioso. Indubbiamente. No, dicevo, ci ascoltiamo qualcosa di Love Spoon. Sì, un altro pezzo da disco. Matteo, ti ricordi cosa abbiamo scelto? Sì, beh, c'è la Nick e la lista. Like an Eleanor. Ah, perfetto, ok. No, notare che Eleanor... Anche quello, Ricorda certa... qualche... qualcosina. Qualche già Eleanor, un'altra sì. Eleanor. Esattamente. L'ascoltiamo. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sì, cari ascoltatori, adesso la solo l'ha fatto Joe e non Matteo. È una cosa positiva, questo scambio continuo, bello, interessante, dà un certo senso alle cose, una continuità, un gruppo vero e proprio. Visto che abbiamo deciso di accelerare per un motivo semplice, per poter consentire di ascoltare due pezzi live, abbiamo deciso di mettere su un altro pezzo da disco, vero Matteo? Che cos'è? Sì, si chiama My Love. My Love, che non è quella di Paul McCartney, ma va bene lo stesso. No. Lo sentiamo. I know it's hard to find what reaction when we're falling down. And I'm falling, falling, falling down. And I know I never see my love again. Pass it down in the rain. She dance around me, dance around me. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questo amore di corsa, My Love, un amore di corsa praticamente. Veloce, veloce. Sì, sì. Musicalmente veloce. Musicalmente dopo. Veloce. Il testo un po'... Il testo non è così, però musicalmente è veloce, veloce. Anche da garage, leggermente. Sì, sì. Ok, adesso abbiamo deciso, io e Agostino e i ragazzi, di fare un primo live, poi ne faremo un altro e concludiamo con un altro. Il primo live che cos'è? Questo è Butterfly. Ah, Butterfly, un altro pezzo molto interessante. Vediamo dal vivo come lo fanno i ragazzi. Prego. Morning, Above you see you cold and blue like a butterfly. For one day, like a butterfly. For one day, you a butterfly. Questa farfalla leggermente velvettiana, un po' oscura, bella, una farfalla velvettiana è una bella cosa secondo me. Siamo bene. Arrivati alla fine. Purtroppo abbiamo già finito. Sì, adesso ti prende l'ukulele. Ecco, bello rosso. Devo guardare un attimo. Accorda pure in diretta che la gente deve sentire mentre accordi. Perché no? È bello così. Allora, finché loro accordano gli strumenti, ricordiamo. Io ricordo il mio appuntamento di giovedì prossimo, insomma, con il Never Flower, insomma, meglio Liciani Sori, che sarà qui presente da Roma con la sua tastiera, presenterà la sua musica. L'appuntamento è sempre alle 21 fino alle 22.30 su Blue Time. Tu invece ci sei domani sera con... Sì, ci sono domani sera con... non ricordo più. I Quattro Madera, sì. E poi mercoledì ci sarò ancora con Billeri, con Valerio Billeri. Con Valerio Billeri, che salutiamo. Che salutiamo. E poi giovedì ci saranno questo duo, questo trio, praticamente ci sarà solo Licia. Sì, sarà solo Licia. Però magari speriamo di... speriamo di fare un trio anche telefonico, ecco, facciamo così. Perfetto. Allora sì, ricordiamo un secondo i vostri riferimenti prima di concludere il programma, cioè dove si può trovare il disco, il vostro sito, i vostri concerti. Allora, noi abbiamo un sito internet che è loves.band.com. Questo è il nostro sito, in cui all'interno si trova anche una sezione merchandising, dove trovare dischi, LP, le t-shirt, sono bellissime le nostre t-shirt. Bene. Poi abbiamo naturalmente... Non siete venuti con le t-shirt? Quello no, purtroppo no, non sono... Neanche Joe. Senza le t-shirt. Beh, prossima volta con la band allargata le t-shirt. Yes. Un incentivo a visitarci. Ecco, esatto. Ecco, e poi abbiamo naturalmente social network, quindi la nostra pagina Facebook, quindi digitando Love Spoon. Questa era una chitarra che è caduta in terra. Esattamente, proprio in diretta. Il bello della diretta. Guardavo la tua. Ecco, poi c'è anche la pagina Facebook relativa alla nostra etichetta, che è la Hey Man Records, nella quale si trovano, oltre ai nostri riferimenti, anche quelli di alcuni gruppi molto interessanti che a breve usciranno con l'etichetta, fra cui i Pip Carter, che sono il gruppo di Claudio Luppi, il ragazzo che ci ha registrato. Bene. Che tra l'altro è uno dei fondatori dei Love Spoon, quindi abbiamo un rapporto privilegiato con sia lui, umano che musicale, e quindi insomma vi incoraggiamo. Che vi porterete qua, speriamo e a breve. Ecco, perfetto, e vale la pena. E un'ultima cosa, se avete... Ricitiamo un'altra volta la data che dovete fare domenica, se avete altre date. Domenica è il 20 di ottobre, sì. E siamo a Luzzuni, a Ferrara, in via Ragno, cioè in centro. Suoneremo attorno, non so, credo alle 20, quindi un orario un po' particolare, ma comunque vi invitiamo a vedere sul sito. Sì, esatto. Altre date, 7 dicembre. 7 dicembre Circolo Mengaroni Pesaro, 20 dicembre Bronson. 17. Poi 17 gennaio suoneremo a Loch Ness, Riva del Garda, e il 20 a Vercelli al Google Club. E bene, poi altre date stanno arrivando. Bene. Ok. Un grazie di cuore allora a Joe alla chitarra, a Matteo all'altra chitarra, a Nick all'Ovetto che yes, sarebbe il bassista insomma della sì, band, e poi salutiamo Luca sì, che è il batterista. E io dice, saluto, devo salutarla, scusate, saluto Elisa e Valeria che ci stanno ascoltando tramite web. Bene. Ciao Elisa e ciao Valeria, un bacione da tutta Blu Radio Veneto ovviamente, un abbraccio da parte nostra. Con cosa ci salutiamo? Con A Song For You. Una canzone per te. Sì, una canzone per te, come non è vero, sei te. Sì. Ed è del primo CD, del primo album. Ukulele Docet. Ukulele Docet. Esattamente. Buonanotte e grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. One, two, three, four, where to go? If you don't love me anymore, foxes said I had a time. Love and love, I love without you. When I come back from war, and your smile is the one for me. This not the first song that I sing for you. 11, 12, or 3 o'clock, you can drink like me and more. You can talk with all your pets, and it seems I can understand. Even if he never had, this is my gift for you. This not the first song that I sing for you. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la for you. This not the first song that I sing for you. La la la la la la, la la la la la la la. This is not the first song that I sing for you.